Allora, la responsabilità della violenza è in primo luogo di chi la compie e questo è un dato imprescindibile nel contrasto. Non ci sono giustificazioni all'atto violento. La violenza contro le donne è agita da uomini e questo nel lavoro per il contrasto è il punto di partenza. Tuttavia la violenza ha anche delle responsabilità che sono culturali e che sono politiche, nel senso che quel singolo uomo che agisce quella singola violenza su quella singola donna fa parte di un sistema culturale, un sistema politico che fino ad oggi tende a giustificarla o a non riconoscerla, a non nominarla e quindi di fatto a deresponsabilizzarsi nel contrasto della violenza. Un altro tema di cui parlerete oggi pomeriggio all'interno del seminario nel Festival La Violenza Illustrata è il gruppo specialistico Violenza Interfamiliare. Che cos'è e che cosa fa? Dunque, il gruppo specialistico Violenza Intrafamiliare è un coordinamento permanente costituitosi all'interno di ASCI Insieme. ASCI Insieme è l'azienda che gestisce i servizi sociali per conto dell'Unione Valli del Reno, Lavino, Samoggia. Si tratta di un gruppo di operatrici appartenenti a diverse aree di intervento: minori, famiglie, adulte, adulti, anziani e disabilità, quindi con diverse competenze di intervento. È un gruppo interdisciplinare, siamo assistenti sociali, educatrici, mediatrici linguistico-culturali, facilitatrici di gruppi di auto-mutuo aiuto e operatrici di pari opportunità. Abbiamo deciso di partire da noi, dalle nostre difficoltà a lavorare con la violenza, sulla violenza. La tendenza anche per noi come entità, come organismo, espressione della politica di un territorio, riconoscere, di nominare la violenza per fare un lavoro a partire da noi, un lavoro di formazione, di autoformazione, di supervisione che ha portato a specializzarci per riconoscere la violenza, quindi nelle donne che si rivolgono ai servizi sociali, negli uomini che in qualche modo ci arrivano o perché inviati attraverso l'autorità giudiziaria o perché compagni, mariti di queste stesse donne. Abbiamo fatto un lungo percorso con Casa delle Donne e con Senza Violenza e con loro rimaniamo in stretto raccordo, in stretto contatto. Come dire, il servizio sociale è la prima porta di accesso per un territorio, ma lavora in rete con servizi che sono completamente dedicati alle donne che subiscono violenza e agli uomini che la agiscono. In che cosa consistono questi percorsi di aiuto rivolti agli uomini che appunto agiscono violenza? Perché è un argomento di cui magari si sa poco. Intanto bisogna distinguere tra servizio sociale e luoghi dedicati all'aiuto degli uomini che agiscono violenza. Allora, il servizio sociale, come dicevo prima, è una prima porta di accesso per tutti e per tutte e deve sapere riconoscere la violenza, nominarla, non confonderla con il conflitto, attribuendo le responsabilità a chi la compie e indirizzandolo verso un percorso di responsabilizzazione. Esistono sul nostro territorio dei luoghi dedicati all'aiuto degli uomini che agiscono violenza. Noi in particolare come ASCI Insieme abbiamo sviluppato una relazione di partenariato con Senza Violenza, che è uno di questi luoghi sul territorio della città metropolitana di Bologna. Sono luoghi che offrono dei percorsi trattamentali sia individuali che di gruppo per uomini che riconoscono di avere agito violenza. Si tratta di percorsi che partono appunto da questo presupposto e comunque mettono al centro la necessità di una responsabilizzazione. A Bologna Senza Violenza è un luogo pubblico gestito da un'associazione ad accesso libero e gratuito, sta in via dei Buttieri numero 9A.